se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Parola petaloso. Questo progetto è un progetto petaloso. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Il congresso segna l'inizio di una pagina nuova. Non è la rivincita. Inizia una storia totalmente nuova. È un foglio bianco quello che sta davanti a noi. È un'altra partita. Chi ha il compito di reggere il timone deve farlo con un grado di consapevolezza e di responsabilità alto nei confronti di tutto il Partito Democratico. Sui gufi abbiamo già dato. Mi auguro che il segretario abbia colto le ragioni del 4 dicembre. Non torniamo a quella musica lì, non ripartiamo dalla storia dei gufi. Significa che il partito ha una sorta di trasformazione antropologica, e cioè è davvero quello che Ilvo Diamanti ci ha tante volte presentato come il PDR, il partito di Renzi. Come si fa a dire che questo è il partito di uno solo? Come si fa a dire che questo è un partito con i leader forti? Può essere che questo partito abbia un leader forte, lo vedremo. Sicuramente questo partito ha una comunità fortissima che mi ha sostenuto quando io ho barcollato. Non sarà Gentiloni, stai serena? Abbiamo già detto che continuiamo a lavorare, a sostenere il governo, e io non posso fare altro, non solo sostenerlo, lavoriamo una tutti i giorni. Una telefonatina a Bersani gliela fai. Hey now, you're an all-star, get your game on. Niente, niente, Marielle La Boschi anche di fronte a Lucci non riesce a perdere quel suo modo di parlare. Io ho già detto che noi sosterremo con... Poi ride, vabbè, ma non ce la fa a essere spiritosa. E viene Lucci e fa una battuta, no? Gentiloni, stai sereno, di una stupidata e basta, no? Che spettacolo. Signori, questo è 24 mattino. Mi ritrovo oggi un po' nudo. Perché non ci sono i giornali, lo sapete, il 2 maggio è il giorno dell'anno in cui non ci sono i giornali, che hanno festeggiato giustamente il 1 maggio, e oggi quindi siamo senza il Corriere, il Sole, Repubblica. Paese triste, grigio, burocratico. Così sì. Caro Presidente De Luca, quando tu sarai qui a condurre in versione 4.0 24 mattino, abolirai anche il 1 maggio, magari. Chi lo sa? Diamoci alla contemplazione. Somebody once told me the world is gonna roll me. The sharpest tool in the shed. Questo dobbiamo è... pure campare. Dai, sì, dobbiamo pure campare, caro Presidente. Per questo molti italiani hanno fatto il ponte. Però ci siamo in questo 2 maggio, siamo tornati. Signori che freddo, come ci fa sapere il nostro amico Luciano, a Correggio ci sono 7 gradi e tra l'altro abbiamo perso molti germogli delle viti di Lambrusco, e speriamo che questo non colpisca anche l'uva. E lo so, questo è un problema degli agricoltori, eccetera. Invece ad Agrigento, signori, ci sono 14 gradi, sappiatelo, ce lo fa sapere Eros. che ha anche tanto sonno. E vabbè, fai il bravo, Eros. A Civitavecchia 9 gradi, come ci fa sapere Bogdan da Viterbo. Mentre a Rio de Janeiro in questo istante ci sta ascoltando Vincenzo, 20 gradi. A Pordenone 9 gradi e mezzo, amo la precisione, 9 gradi e mezzo. Il nostro fornaio di Ravarino ci fa sapere che ci sono 7 gradi, così 7 gradi a Paratico, Roberto. A Voltabarozzo, Padova, 11 gradi e sereno. A Rimini, 9 gradi. Beh, saluto anche a Besançon, 4 gradi, Michele e Elise ci stanno ascoltando dalla Francia. Io devo salutare, saluto con grande piacere l'onorevole Maurizio Bianconi, direzione Italia, signori. Buongiorno. Buongiorno, come va? Bene. Passato il pontone? Sì, sì. E che hai fatto, Maurizio? Sono in casa. Ah, in casa, proprio così a fare i lavori di casa, a stirare, a cucire, a lavare, a... Sì, sì, sì. A fare di conto, a fare di conto, caro Maurizio Bianconi, insieme a te abbiamo sbrandato, è il caso letteralmente di dirlo, al grido di meno male che c'è l'Inter, signori. Se il ponte è stato difficile, Silvia Brasca del TG della 7. Ciao Silvietta. Ciao, buongiorno a tutti. Ma ti sembra di sbrandarmi e poi subito darmi la staffilata? Esatto. Comunque, buongiorno, cioè, a tutti. Ti abbiamo sbrandata per dirti questa cosa. Meno male che c'è l'Inter. Maurizio è interista, Silvia Brasca, Silvietta Brasca. Mica tutti possono essere felici, insomma. Ognuno i suoi disgrazie se le procura. E se le procura e se le porta presso, le carica nel fagottone, se le mette in spalla e sì, se le porta avanti una vita, così, insomma. Domenica non hanno vinto, quando giocavano, né un contrasto né una... Io non ho mai visto. È una roba incredibile, guarda. Silvia, secondo me, era pure a San Siro. No, guarda, no? Proprio non ero a San Siro, non so neanche se ci tornerò. Ecco. Sono davvero arrabbiata. Dopo anni di abbonamento fisso, non lo so. Lo so, però domenica sera era la giornata di lavoro. Ah, ecco giusto, le primarie. Stavo nicchiando, ma dobbiamo parlare di queste primarie. Vabbè, dai, apriamo il Parlamento, dai, forza, forza. Ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Allora, forza, perché ripartiamo, ci sono le primarie del PD. C'è il concertone del primo maggio, un gran classicone. Bianconi se l'è visto tutto, io lo so. Niente, tutto. Neanche ho visto solo un cretino. Sì, un cretino con un paio di calzoni che mezzi ce l'aveva, mezzi no, che gli mandano in mezzo alla gente e ce l'ha ricattato. Ma non so chi era, ma ho visto un minuto proprio. Quelli dello statuto sociale, cos'è che erano? Stato sociale, sì. Lo stato sociale, sì. Ma proprio un demente, tirava dei paronati, tirava un gambale, sì, un gambale sì, un gambale no. Poi diceva, tirava i palloni per prendere in giro il ministro Poletti, quello che ha detto che il calcetto, no, e quindi tirava. Silvia, spiegali tu, mamma mia. No, io ho visto proprio un passant, si dice così. Sì, un passant. Oddio, via. Ha visto uno che tirava palloni dal palco, ha detto via. Lo Stato sociale ha preso in giro Poletti per il calcetto. Pigliare in giro Poletti non è una grande impresa, ma lui piglia in giro tutti, perché anche lui dalle sciocchezze, cioè fa ancora presidente delle cooperative, siamo alla follia. Vabbè. Insomma, dai, vabbè, ripartiamo da Renzi. Allora, giornata di lavoro domenica, e che dobbiamo dire, Silvia? Giornata di lavoro, Renzi, adesso pare che anche le contestazioni siano finite, è confermato il 70%, torna a capo del Partito Democratico, e via, insomma, si riparte da dove eravamo. Il conte di Monte Cristo, no, non si lo rivedo. Questa se la rivende in Parlamento poi, Bianconi, stai attento, il conte di Monte Cristo. No, ma no, c'è la pagina bianca, aspettiamo, c'è una pagina bianca da riempire e allora aspettiamo, ha preso carta e penna, adesso vediamo come la riempie. Direi aspettiamo, era abbastanza buono domenica sera, cercato sì. E poi bisogna il carattere, quello che è il carattere poi. È quello che è, vabbè, intanto torniamo con Renzi, presidente del no presidente segretario del Partito Democratico, questo è, ragazzi. Bianconi, vi preoccupa voi di Direzione Italia? A me preoccupa molto, ma però bisogna dare atto che, insomma, meno male 1.800.000 si sono andate. Eh sì, come no? Bene o male ha preso il 70%. Se gli italiani sono così, se lo prendano, ma che si tenta? Questo è un bugiardo professionale. È quasi patologico. E dice che se ne va, poi torna. Poi io ho inventato la pagina bianca. Ha vinto nonostante la Boschi. Guarda, gli italiani fanno vincere nonostante la Boschi, il babbo di lei, il babbo di lui, cioè, le bugie, le pallonate, il referendum perso. Cioè, siamo proprio a una tragedia itinerante e vince. E se vince vuol dire che bene che vinca, insomma. Vince portando a votare quasi 2 milioni di persone in un weekend. È inutile con la politica in ribasso, quindi il successo pagando. È pieno. Con gente che paga anche. Ha pagato i 2 euro. Vabbè, ma non è una buona. Il fatto che ci siano 1.800.000 di persone che vanno a votare, io non sono andato a votare. È andato positivo. Già faccio fatica ad andare a votare quando tocca, figurarsi. Ma è un dato positivo, non è mica. Vuol dire che c'è un'Italia vivace che gli interessa la politica. Questo non è. Chi è che mi sconosce questo dato? Dice la stavolta con 3 milioni, grazie a Graziella e consensualmente, no, grazie a Graziella e poi la terza ce la dice Silvia Brasca, com'è che era? Grazie a Graziella e non ricordo la terza sorella. Le situazioni erano molto diverse e questo comunque e questi comunque riescono in una situazione così di declino generale a portare 2 milioni di persone. Vabbè, ma adesso la domanda che si pongono tutti, ha cercato di fargli la Lucci per farla sorridere, ma la Mariana Boschi non sorride mai. Ha deciso che non può fare mai una battuta, neanche se uno proprio gli racconta una barzelletta. Lei dice: caro mio, perché gliene fanno troppe contro di lei. L'ironia è l'autonomia. Silvia, difendila. Adesso ha vinto nonostante la zitta, però subito la prima cosa che dice la Boschi. Ce l'hai con la donna, ce l'hai con la donna. E poi deve pure starvi a fare le battute. Lasciamola in pace. Senti, Brasca, io la Boschi la conosco bene. Chiedi la verità. Allora io la prendevo in giro. Io la prendevo in giro. E si era lì alla mensa in Parlamento. Sì. E lei? Un mio amico deputato loro, cioè, guarda che lei è arrabbiata che la prendi. Dico, ma se mica scemo. Cioè sì, sarà arrabbiata. Ma cosa diceva per prenderla in giro? Cosa dicevi per prenderla in giro? Ma niente, di cose, roba non ti dava mista. Vado lì e gli faccio, ma mica sei arrabbiata, che ancora non era ministro, era ministro, ma insomma ancora non stava proprio contato il capo come adesso. Dice, ma cosa dice? Dopotutto io sono avvocato, porca puttana, e io che so che 45 anni che lo faccio l'avvocato, o che mi dici a me che sei avvocato? Cioè, che vuol dire che ti che vuol dire che aveva studiato, che va laureata, che va brava, e che io la devo pigliare in giro? Ma te li concise mica tutte. Certo, essere preso in giro da Bianconi, io mi immagino le battute. Allora, le battute. Una che non ha ironia e autironia, ironia e autoironia, e vuol dire che manca qualcos'altro. Vabbè, ho capito, cioè, non ha ironia e autoironia. Comunque, la domanda voglio porre è questa. Silvia, ora che succede? Perché tutti a dire Gentiloni, stiamo con Gentiloni, alla quarta volta che dicono stiamo con Gentiloni, no, partono già le battute, vedi, Gentiloni stai sereno, come Enrico Letta, cioè che succede? Renzi vorrà andare a votare al più presto oppure no? Con che legge si va a votare? È questa. No, secondo me no, non si può andare a votare ancora con questa. Non si può. Adesso Mattarella esci dalla brasca. Mattarella esci dalla brasca. No, ecco. Va bene. Mattarella dice che non si può andare a votare con questa legge, però. Insomma, per rispetto a noi. Una legge va fatta, ma no. Ma guarda che non ancora, secondo me non le vedo ancora vicine. No, prima non vuole votare Renzi. Prima Renzi non vuole ha il foglio votare, bianco, ecco. E deve riscrivere. Ecco. Ma non scherzo, cioè, deve rifarsi un'immagine abbastanza populista, abbastanza, cioè deve dire che è proprio cattiva, brutta, che la finanza è cattiva. Cioè, si deve ricostruire un'immagine. E quindi ha bisogno di tempo, su questo io non ho dubbi. Lo disse poi nel confronto che c'era tempo fino a maggio 2018 per votare. L'unico che non ha fretta di votare è lui. Renzi. Mentre penso che Gentiloni cada, ma non per Renzi. Ah, e perché? È perché Alleanza Popolare, appena è passata la finestra delle elezioni possibili anticipate, lo fa cadere. Cioè Alfano fa cadere. Alfano! Alfano! Sì, a che... meno che fosse il regista della Alfano, politica italiana. Il vero regista della politica è il mistero Alfano. Ma quali voti? C'è i voti parlamentari. Ah, c'è i voti parlamentari. C'è i voti parlamentari. Lui ha tutto l'interesse a riposizionarsi, poiché questo non vuol fare la lista unica, e quindi secondo me si mette a fare, diciamo così, il censore per cercare una posizione. Questa è la mia idea. Guarda, adesso faccio arrabbiare Bianconi, guarda che arriva un bel messaggio, faccio arrabbiare Manchioni, ma lui non può rispondere perché c'è il traffico prima, quindi può contare fino a 50. Certo che Bianconi, che dice bugiardo di Renzi, lui che stava con Berlusconi e votò sulla nipote di Mubarak. La nipote di Mubarak. Traffico! Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su Faircam.com. Vi presenta. Oh raga, manco più col Crotone vinciamo più. Milan, ma dimmi una cosa, ma il sindacato dice che la priorità è il lavoro, il governo dice che la priorità è il lavoro, il presidente della Repubblica dice che la priorità è il lavoro, ma non è che la colpa è tua se non c'è il lavoro? Boh, tutta una banda di caproni tra tutti. È vero, come ha detto Matteo Salvini, che da una coppia omosessuale non può che crescere un ragazzo con handicap, è anche vero che da una coppia eterosessuale è cresciuto Matteo Salvini. Insomma, non c'è la formula esatta, no? Caro Bianconi, questi erano sempre lo Stato sociale contro Salvini ieri al concerto del primo maggio. L'esempio da imbecilli, ma il concetto è giusto, cioè non si passa con queste discriminazioni. A me ma sono d'accordo. Tra l'altro lo disse proprio Radio 24. Che un anno e mezzo fa, credo, la coppia omosessuale parte con l'handicap. Dice che gli manca la mamma, e gli manca la mamma, e quelli che sono orfani, che gli manca la mamma, e quelli che sono separati, o gli manca il babbo, la mamma. Ma certo. Vabbè, ci sono delle carenze, ma a me è sempre meglio lì che non fanno troppo. Siamo con Maurizio Bianconi, direzione Italia, con Silvia Brasca. Mi diceva che di Mubarak, che anche votai, che votai. Eccola, ecco Silvia, non me lo fa passare così. No, ma io non mi sono mica arrabbiato, la coglione via mi ha gradito anche lei, l'ha detto un ascoltatore, vi è sms. No, dico mica la posso dire, e basta, insomma. Questo ha detto che se perdeva un referendum costituzionale, istituzionale, sì, andava a casa. Io mi sono limitata a una disciplina infame di partito con tutte le documentazioni che ci sono sul quale ho detto che era l'ultimo voto che gli davo sulle cassate. Disciplina, hai sentito Silvia Brasca, hai sentito anche te, mi sono adeguato alla disciplina infame l'ultimo voto che detti in disciplina di partito. Finalmente l'ultimo Bianconi voto. Svela che non credevano che fosse la nipote di Mubarak, no, ma hanno dovuto votare così. Per la precisione, Pani, non disse questo. Ma che Berlusconi pensava che fosse no, la neanche. Neanche che cazzo. Che, no, la ringa di Pani, l'avvocato consumato, per stappare il voto a noi altri, che si era molto vestiti, disse che non si poteva escludere, che avesse pensato che potesse essere. Capito? C'erano 7.000 condizionali. Roba da Juventini. Panizza si sa Juventino. Brava Silvia, dillo. Brava. Comunque non c'è una cosa, non è una cosa di cui andare fieri. Come non c'è da andare fieri, però? Cercando di averlo fatto fuori su una cosa così, perché le colpe sue erano ben altre. Questo sì, vabbè, dai. Allora Silvia, siamo tornati a parlare della moglie di la nipote di Mubarak, capisci? È un'Italia che va avanti, è un'Italia che va. È stato lei a parlare. Sì, è vero. Io faccio come già, è stato l'ascoltatore a tirare in ballo con l'SM, colpa sua. È un voto che è un peccato originale, quello, un voto che si tireranno dietro. Ma non è granché. Allora signori, però allora torna la questione, sempre questa tiene banco. Io una cosa non ho sopportato in questi giorni, anche su questo PM Zuccaro, procuratore di Catania, che cosa è partito in Italia? Il tifo da stadio. Adesso bisogna decidere se stare con Zuccaro o non stare con Zuccaro. Io quando viene messa così, basta, mi isolo, cioè me ne vado via, come se vedo una rissa da bar, me ne vado. Perché com'è possibile, Silvia, non so, anche voi l'avete seguita come cronaca, bisogna adesso decidere se stare con Zuccaro e dunque tutte le ONG sono il diavolo, oppure se dire che Zuccaro sta sbagliando e quindi tutte le ONG sono delle brave persone. Questo è l'unico modo si in cui si fa fatica perché bisogna, allora, perché appunto il dito alla luna, allora secondo me Zuccaro ha sbagliato, non si fanno le accuse così. Tra l'altro anche hai visto il procuratore di Trapani, si è arrabbiato, ha detto ma come, ci sono anche altre procure, tra cui la sua, che stanno indagando, e abbiamo probabilmente, ha lasciato anche lui intendere di avere qualcosa di più sostanzioso in mano di quanto sembra non abbia Zuccaro, che sono questi rapporti dei servizi, E però il fatto rimane, c'è cioè questa inchiesta, ne avevo parlato anche con Giulia l'altro giorno, tra l'altro è sotto traccia, è non dal rapporto del 2017, ma addirittura dal rapporto uscito a novembre del 2016 che se ne parla. Bisogna vedere. No, ma infatti io dico, ma che male c'è nel fare delle indagini anche sulle ONG per capire se qualcuno sbaglia, se qualcuno. Però Bianconi adesso è partita, tra l'altro, certi titoli di certi giornali. È partito tutto con le ONG, oppure quella, dai, io Di Maio veramente, cioè le ONG fanno i taxi, ma come si fa a definire un taxi uno che prende dalla Libia, si butta per mare rischia di morire, il taxi, come si chiamasse veramente. Vedi Milan, intanto c'è da dire che ci sono alcune cose in un secondo. Intanto si deve dire che in Italia i pubblici ministeri decidono la politica, l'etica, tutto è in mano alla magistratura, che muove o che non muove. Tutto. La seconda è tutto, perché anche questa è una questione che noi si delega alla magistratura. perché che ci siano delle ONG. No, in Parlamento state facendo da tante di quelle audizioni, non nella commissione. Non ci sono io in commissione. Però vengono lì a parlare. Insomma, che la politica italiana abbia delegato alla magistratura un sacco di risoluzioni di alcuni problemi, di molti problemi, non è una novità. Però non è neanche una novità dire che ci sono delle ONG che si lavorano sopra oggi, e fare le verifiche stupefatte su questo. Era come dire che non sapeva che i socialisti rubavano e fosse da dietro. Sono cose non si può fare dei verifiche stupefatte su delle situazioni che si sono verificate. Quello che succede a Roma e nel processo di Roma indica che c'è sicuramente una parte malata di questo fenomeno. Criminalizzare questo fenomeno come fa Di Maio, è una speculazione politica che rimane inaccettabile. Cos'è il però? Sì. Sulle ONG, la questione di Roma, sono 35 euro al giorno a migrante che si prendono le cooperative, e su quei 35 euro, insomma, sappiamo, ecco. Le navi, cioè Medici Senza Frontiere, non ci guadagna niente a prendere, quindi già questo, capire dove sarebbe il guadagno. Io ho visto nei numeri finali. No, ma tu citi Medici Senza Frontiere, Medici Senza Frontiere, ma ci sono delle ONG diverse, ma lo so che ci sono anche le altre, lo so, ci sono delle ONG che ci sono comprate delle navi, ci sono dei flussi di navi. No, non le comprano, le affittano, che non sono soltanto quelli dello Stato. Cioè, non possiamo prendersi in giro su queste cose, tutti buoni, tutti cattivi. C'è un fenomeno che sicuramente, molto probabilmente, ha delle deviazioni. Però dire quello che dice Di Maio, secondo me se ne corre, questo è il punto. Certo, vero. Bianconi, scusami, lì l'hai visto, ci sono le navi delle ONG, sono 8-9, non di più, e poi c'è la Marina Militare. Ora, la Marina Militare non vedo che abbia, e la Guardia Costiera, vedono quello che succede, sono lì, hai capito? Sì. Io non ho visto queste grandi denunce. L'unica cosa è che si possono mettere un po' più avanti rispetto al limite delle acque territoriali. Si possono, ecco, quello può essere quello che succede. Bisogna per capire come stanno le cose, bisogna andare per mare. Io ho abbastanza esperienza per dire questo. Sì, ma non farei il tifo né per l'uno né per gli altri. No, esatto, io e questo c'è la questione del tifo che mi ha un po' perplesso. Dopodiché c'è un'inchiesta. Non è questione di tipo, che quando appunto senti taxi o leggi certi articoli, certi titoli di giornale, allora ti viene da tifare. Ma questa è la politica in Italia, ormai è così. Non è questione di tifare, è questione di mettere. Di Maio non ha letto probabilmente il rapporto di Frontex, questo ultimo del 2000, quello uscito tifo. Nel 2017. Sì, allora la politica è tifo, che dobbiamo fare? E io questa è infatti la considerazione da cui sono partito, cioè l'idea che sia stata dipinta come sto con Zucchero, sto contro Zucchero, sto con le ONG, sto contro le ONG, insomma un po' all'italiana, ecco, un po' all'italiana. Noi di tifo, cara Silvia, ce ne intendiamo parecchio, insomma, ultimamente. Tu per esempio l'hai abbandonato lo stadio. Va bene, dai, mi devo fermare qui. Ringrazio Silvia Brasca e Maurizio Bianconi, direzione Italia. Ci ritroviamo presto. Il segnale orario vi è offerto da Pantera di Infracom. È il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milan, anche quelli di Roma e Napoli. E me ci mettiamo pure quella della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quella della Sicilia. 24 mattino. Signori, sono le 7 e 16 minuti, ma come vedete oggi è il 2 maggio, siete tornati dai vari pontoni. Cosa devo fare, Peter? Devo lanciarti il traffico? No. Lanciamo il traffico che è saltato in questo momento. Traffico!